GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Agenda fitta per la prima riunione dell'anno. Oltre alla nomina del nuovo presidente, l'Eurogruppo in programma in queste ore a Bruxelles deve affrontare la questione Grecia, fare i conti con le nuove paure che arrivano da Cipro, con il governo ormai a corto di liquidità. Sulla nomina del successore di Juncker sentiamo il servizio di Beda Romano. Sarà molto probabilmente olandese il nuovo presidente dell'Eurogruppo. Questa sera dovrebbe essere eletto dai suoi omologhi. Jeroen Dijsselbloem, a 46 anni, è ministro delle finanze nel governo Rutte da 3 mesi e nonostante un'esperienza limitata è riuscito a convincere molti paesi. In parte naturalmente perché non vi sono alternative alla successione di Jean-Claude Juncker e poi perché Dijsselbloem gode dell'appoggio della Germania e del presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy. L'uomo si è dimostrato in queste settimane affabile ed equilibrato. Specializzato in economia dell'agricoltura, il probabile prossimo presidente dell'Eurogruppo sarà chiamato a non poche mediazioni. Il nodo più attuale riguarda la ricapitalizzazione diretta delle banche da parte del Fondo Europeo ISM. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E domani tocca al ministro dell'economia irlandese Michael Noonan, il cui paese detiene dal 1 gennaio la presidenza UE. Noonan sarà soltanto il primo di una lunga serie di ministri di Dublino, tra cui quello degli esteri e dell'occupazione, che presenteranno agli europarlamentari il programma e le priorità per i prossimi 6 mesi. Tra i voti più importanti della settimana, mercoledì, quello sul riconoscimento delle qualifiche professionali, la Commissione Mercato Interno intende approvare una modifica alla legislazione UE per facilitare la possibilità per i cittadini europei di vedersi riconoscere le proprie qualifiche in un altro Paese membro. All'indomani del quarto round del dialogo tra Kosovo e Serbia, per Belgrado la normalizzazione delle relazioni con Pristina rimane il requisito chiave per fare progressi nel percorso di integrazione dell'UE e incassare così l'apertura dei negoziati di adesione. Così Herman Van Rompuy, dopo l'incontro con il premier serbo Ivan Dačić, ma nei Balcani continua invece la guerra dei simboli. Per Pristina è una violazione dei diritti umani, per Belgrado solo l'applicazione della legge. A gettare benzina sul fuoco della tensione fra Kosovo e Serbia, la rimozione a Preševo, capoluogo della regione meridionale serba a maggioranza albanese, di un monumento ai guerriglieri indipendentisti albanesi, uccisi 10 anni fa negli scontri con le forze serbe. A più riprese nei giorni scorsi, le autorità di Belgrado avevano intimato ai responsabili locali di rimuovere il monumento dalla piazza principale di Preševo, dove si trova dal novembre scorso, eretto in coincidenza con le celebrazioni dei 100 anni di indipendenza dell'Albania. Ieri mattina il grande blocco di marmo è stato rimosso dalla polizia serba e portato in un luogo sconosciuto. L'episodio rischia di compromettere un dialogo già difficile mediato dall'Unione Europea e farà da sfondo a febbraio a un nuovo faccia a faccia tra il premier serbo e quello kosovaro. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine, la crisi in Mali. Mentre aerei francesi colpiscono postazioni islamiste a Timbuktu, l'Unione Europea ha annunciato un vertice internazionale sul Mali il 5 febbraio a Bruxelles. Sarà organizzata con l'Unione Africana, la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, le Nazioni Unite e si terrà appunto nella capitale dell'Unione. Così il portavoce del capo della diplomazia UE, Catherine Ashton. E con questo è tutto per GR Europa. L'appuntamento domani poco dopo le 3. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.